Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Se vi dicessi che il tema di oggi sono le bottiglie di latte, non è una trasmissione che ha a che fare con assolutamente il latte e i suoi derivati. Bottiglie di latte è un termine abbastanza crudo con cui ragazzi dei paesi caraibici, ma anche del Gambia, del Senegal, del Marocco, del Kenya, definiscono le turiste sessuali che vengono dai paesi occidentali. Le bottiglie di latte da riempire sono queste signore di età media, quarantenni, cinquantenni, la maggior parte dei casi single, che vanno in questi paesi per avere semplicemente, crudamente, naturalmente, lecitamente da parte loro, rapporti con ragazzi locali che ben volentieri si prestano a questa sorta di commercio. Non è paragonabile questo tipo di turismo sessuale allo scellerato e bieco turismo sessuale di genere maschile, che è molto più crudo, molto più vessatorio, molto più legato alla sopraffazione, molto più legato all'infame ricatto di acquistare persone, soprattutto minorenni, fino a scemare nell'area torbida della pedofilia, praticato da uomini di tutte le classi, di tutte le età, anzi l'età si sta abbassando, basato su desideri compulsivi. Queste signore, nella maggior parte dei casi, perlomeno da quanto leggo, da quanto cercheremo di capire questa mattina, sono signore mosse da un lecito bisogno di amore, di affetto, di contatto fisico. Alle loro latitudini non sono più considerate donne accettabili, donne desiderabili, donne degne di essere considerate, e quindi vanno a cercare altrove quello di cui hanno lecitamente bisogno. La differenza fra il turismo sessuale maschile e il turismo sessuale femminile, da quello che mi sembra aver capito, io questa mattina sono per pormi domande e per avere per quanto possibile risposte. Anche chi del pubblico, chiamando all'800 24 00 24, avesse un suo contributo, non è detto che debba necessariamente raccontare proprie esperienze personali, ma tutto ciò che è utile a definire meglio il fenomeno, secondo me è molto interessante. Dicevo, la turista sessuale femminile, la bottiglia di latte, non è necessariamente spinta semplicemente, unicamente, da un compulsivo desiderio di possesso. Molte volte si innamora, allucina una vera e propria storia d'amore con il ragazzo che appunto si dichiara disponibile a questa sorta di mercato, non sente di pagare un prostituto, anche perché molte volte l'aspetto, diciamo, pecuniario è molto diluito, passa sotto forma di regalo, passa sotto forma di mantenimento, passa sotto forma indiretta, non è così crudo come il mettere i soldi in mano. Molte volte è una storia d'amore nella sua testa, torna in più volte nello stesso posto per incontrare la stessa persona. Molte volte ne diviene vittima, perché la persona, capendo esattamente con chi ha a che fare, qual è il livello di debolezza e di poca difesa da parte di questa persona, molte volte la induce addirittura a sposarlo, diventa il suo sfruttatore da questo punto di vista, per avere naturalmente dei vantaggi. Mi interessa questa mattina, parleremo in generale di turismo sessuale, visto che abbiamo recentemente lambito l'aspetto turistico, l'aspetto vacanze, in crisi le vacanze, in crisi il turismo, perché c'è una crisi dilagante, è in crisi anche il turismo sessuale, difficilmente penso che andrà in crisi il turismo sessuale e il turismo sessuale femminile, ne avete mai sentito parlare? Vi considereste limitate o sentireste in qualche maniera intaccata la vostra dignità sapendo che qualcuno vi consiglia delle bottiglie di latte da riempire? Trovate lecito, trovate giusto, trovate che faccia parte della necessaria e civile uguaglianza di diritti da parte delle donne, il fatto che una donna possa andare anche a cercare amore prezzolato, che una donna abbia desiderio di rapporti fisici, di tenerezza, di contatto concreto e carnale, non debba sempre mascherarsi dietro questa sua natura che lega tutto all'affettività, all'amore, alla tenerezza. È giusto che una donna vada a fare la turista sessuale? 800240024. È qui da sola? Sì. Bene. Benvenuta in paradiso. Si divertirà. Vado pazza per l'amore. Sesso, amore. Non li distinguo più. In fin dei conti, diciamoci la verità, io qui i bianchi non li guardo nemmeno. Sono alquanto insipidi rispetto ai neri, no? Se ti piacciono tanto i neri, dovresti andare a Montreal. Questo è un film che rischiò di prendere addirittura la Coppa Volpi, quindi un film di un certo pregio verso il sud. La protagonista Charlotte Rampling, assieme a una sua amica, la perfetta rappresentazione della bottiglia di latte di cui stiamo parlando questa mattina, vanno verso Haiti, mi sembra che sia questa la loro meta, a fare appunto, a cercare bei ragazzi con cui avere storie d'amore. Ahimè, entrambe si fissano con la stessa persona, entrambe, come è classico, come appunto è da manuale il comportamento della bottiglia di latte, immaginano, pensano, suppongono una storia d'amore con questo ragazzo, quindi fra loro si aprirà un forte conflitto. Questo dimostra che in fondo c'è sempre una fattispecie femminile, c'è sempre una singolarità femminile anche in questo tipo di turismo, in questo tipo di necessità di cercare abbracci che non siano abbracci solamente formali, o non siano il segno del disprezzo che l'uomo occidentale conferisce alla donna, che non perfettamente risponda a quei canoni di splendore, di bellezza, di freschezza, di gioventù che dovrebbero essere le uniche caratteristiche che accendono il desiderio. 800240024. Sappilo, se sei in cerca di un marito hai sbagliato indirizzo. Il suo corpo mi affascinava. Felino, agile, muscoloso, la pelle luminosa. Non riuscivo a togliergli gli occhi di dosso. Perché secondo voi soltanto l'uomo occidentale può allucinare dei modelli di perfezione fisica, pensare, immaginare delle indefesse e instancabili e appassionate e a lui dedicate macchine d'amore, di passione e di sesso? Perché non può pensarlo anche la donna? Perché la donna non può cercare dei modelli che siano perfettamente corrispondenti a queste fantasie? Se si guarda intorno non li trova. Che uomini si trova intorno disposti comunque ad amarla al di là della sua età non proprio freschissima, della sua pelle non proprio splendente, delle sue forme non proprio perfette? Perché se lei si sente ancora voglia, desiderio, passione, perché deve essere messa in riserva, deve essere considerata ormai come una persona non più degna e non più meritoria di queste attenzioni? Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. No, stavo seguendo con interesse l'argomento di oggi, anche perché secondo me tira fuori tante cose. Innanzitutto una differenza nel genere, cioè le aspettative che l'uomo e la donna hanno verso gli altri. Anticipava lei che sembra quasi normale che l'uomo agisca in un certo modo, cioè trovi delle amicizie a pagamento, è un po' più difficile considerarlo nella donna. Ancora, la seconda considerazione che voglio fare io è perché la donna deve sentirsi in colpa, considerando l'oggetto sessuale l'uomo, ma in questa relazione a me sembra che comunque i carichi siano in qualche modo paritari, perché già nella definizione di bottiglia di latte non si capisce bene quale sia l'oggetto faccia dire alla radio l'oggetto che riempie la bottiglia, no, io parlo in senso metaforico ovviamente, cioè non è che è detto... però quello che voglio dire io è che siamo ancora a un'annosa distinzione proprio. La questione è sempre rapportata a diciamo, lato esterno del nostro corpo, perché non deve essere accettato. Sì, però lei immagina il punto di vista di questi ragazzi arrabbiati che vengono da paesi che sono sempre sentiti naturalmente emarginati, sottoposti, soggetti, con mille problemi. Vengono arrivare questi contenitori vuoti, ma vuoti in tutti i sensi, poi nella loro radicale e fantastica poetica semplicità parlano di bottiglia di latte perché è una persona bianca vuota, ma vuota di affettività, vuota di desiderio. Perché le nostre bottiglie di latte sono vuote? Questo dovremmo chiederci noi uomini occidentali, se hanno desiderio e bisogno che qualcun altro le vada a riempire o se devono muoversi per essere riempite. Sentiamo Clara Caverzan, buongiorno. Buongiorno. Clara Caverzan è l'ospite d'onore di questa trasmissione perché è una donna che ha avuto l'intrepidezza e il coraggio di sollevare un velo su questo, che non è un problema, su questo aspetto di cui si parla sempre con poca leggerezza. Ricordo che Clara Caverzan è autrice di un libro che fece molto discutere qualche tempo fa, Desideria. Ricordo che la signora Caverzan era sindaco di un comune veneto, fece molto scalpore. A un certo punto questo sindaco di questo comune, di rispettabilissime signore, scrisse un libro in cui parlava del desiderio femminile. Apriti cielo, guai, non si fa, la sindachessa scandalo la chiamarono. Adesso si riproduce in questa operazione con il libro Goodbye ai Bibi, edizioni a Nord-Est, che è il libro che parla proprio di una donna con delle forti insoddisfazioni personali, affettive, sentimentali, con un matrimonio disastrato, che si incammina sulle spiagge dell'Egitto proprio alla ricerca dell'amore. Ho sintetizzato bene il suo libro? Non proprio, perché questa la protagonista Virginia si trova suo malgrado a dover fare i conti con un tipo da spiaggia, con un impostore, con un malfattore che poi lui lo diventerà, ma chiaramente lei subito non lo riconosce, no? Ed è la storia che succede soprattutto a noi italiane, perché dobbiamo fare anche un distinguo. Ci sono donne chiaramente che partono per comperarsi dei ragazzi, e anche delle coppie che partono e sono, diciamo, l'infamia dell'Occidente, che arriva in un paese islamico a comperarsi questi ragazzi per i loro giochi erotici. La storia invece, io intanto vorrei farle i complimenti perché lei è proprio partito dal punto giusto, no? E vorrei così sottolineare, proprio partendo non dalla donna, no, ma partendo proprio da lui, dal protagonista, Bahar, il protagonista del romanzo, che un ragazzo nubiano che è al centro, un ragazzo, diciamo. Esatto, un ragazzo nubiano, la Nubia, un paese poverissimo dell'Egitto più povero, un ragazzo che ha soli 12 anni, come tutti gli altri che lavorano nelle spiagge, è stato messo in strada a pensare a se stesso, e che viene a contatto con il turismo. Quindi che cosa, non è che loro ci vedano quando noi arriviamo, noi donne dell'Occidente, che arriviamo con tutti i nostri capi più belli perché ci compriamo i costumi più belli, i parei più belli, i vestiti più belli. Questi ragazzi, quando ci vedono arrivare, no? Quando ci vedono frequentare i posti più alla moda, i posti più belli, che per noi costano pochissimo per noi, ma per loro? Cioè, cosa andiamo a portare? Che cultura portiamo noi? Come ci infiltriamo nella loro cultura, nella loro religione, nei loro usi e costumi? Cioè, siamo uno schiaffo tremendo. Creiamo un cortocircuito inimmaginabile. Inimmaginabile. Questo è chiaro. Questo è chiaro. Quindi, ma altrettanto, se mi permette, Clara Caverzan, sì, per tenersi sempre su un binario, sì, equo, anche gli operai delle catene di montaggio, i ragionieri, i geometri che vanno a Cuba fingendo di essere miliardari, anche sì, loro si vendono quello che non hanno, danno il massimo di sé, è lo stesso più o meno tipo di rapporto. Allora, però il discorso è anche questo, che comunque, che tu sia un metalmeccanico, che tu sia un industriale, loro ti vedono miliardario, perché per loro sei l'Occidente, sei la Luna, sei il... E questo già mette una posizione loro... di vantaggio, sì, estremo. È un di vantaggio estremo, quindi c'è l'incontro di questi ragazzi con il turismo, c'è questo scontro, incontro, questo cortocircuito, è giusto come dice lei, che non è necessariamente veramente un incontro di un turismo di massa, eh? Non, anche un turismo d'élite, perché l'amore può nascere. C'è anche un film di un'americana che va al Cairo, molto bello, che parla di questo incontro, questa guida e questa ricca americana che si innamorano e poi alla fine... Ma c'è anche il film La Masai Bianca, di questa famosa signora, sì, che va, si innamora di un Masai, ci fa anche, esatto, un figlio, non è che... Sì, no, perché poi appunto da questi nascono dei rapporti, con questi ragazzi... Ecco, questa è la differenza, è d'accordo lei, Caverza, anche la differenza che la donna fa turismo sessuale, comunque alla fine si stabilizza in un rapporto, diventa il suo fidanzato, sì, ideale? Sì, allora appunto, o se lei si innamora, allora possono succedere diverse cose, no? O si sposano, si fidanzano e si sposano, ne succede. Cioè e lei è fottuta da questo punto di vista? Può darsi anche di no, perché ci sono anche delle coppie miste felici. Però se lei si innamora e lui si è lì che lei sarà, mi perdoni, le riprendo il termine, che lei sarà fottuta, quando lui si fingerà innamorato, perché soprattutto i ragazzi egiziani, per gli arabi l'amore è un'arte, e quindi lui saprà fingere benissimo, perché tre sono i motivi principali: il business, visa, il visto per venire nell'Occidente, e money, soldi. Una cosa solo, Clara, sì, perché ha detto che le italiane hanno delle caratteristiche singolari? Chi sono le vere esperte di questo tipo di turismo rispetto a noi che probabilmente siamo ancora agli albori? Le italiane, parliamo la maggioranza, no? Il fenomeno delle italiane è lì, cioè nel senso che, come dicevate voi prima, frequentano sempre la stessa persona, vanno a trovare sempre la stessa persona, sono innamorate, ci credono, non si rendono conto di essere delle turniste, perché chiaramente noi lavoriamo, e quindi qua, se arriviamo là, stiamo lì una settimana, è chiaro che la settimana dopo arriva la tedesca, qualcuno, l'olandese, chiaro, no, può arrivare qualcun altro, ecco. Però se la donna è brava a mantenersi in una linea, diciamo, non andare fuori dalle linee, il rapporto può anche durare. Fermiamoci solo un secondo, sentiamo Mauro. Mauro è stato in Giamaica 2 volte. Nicoletti, buongiorno. Sì. Volevo portare la mia testimonianza, appunto, come ha detto, sono stato in Giamaica 2 volte. Quello che mi è rimasto più in mente era James, il bagnino dell'albergo dove alloggiavo. Ogni giorno portava sulla sua barchettina remi verso la sua capanna dell'amore donne occidentali che spaziavano dai 30 fino ai 70 anni. E parlando con lui, confrontandomi, tutte pagavano, tutte. Di più chi di meno, ma tutte davano soldi. Non è che lui lo faceva per sport, di portare una 70enne sulla barchetta, è chiaro. No, anzi, era tutta la ricerca del black bamboo, come si dice, sì, in gergo locale. E quindi? E quindi, diciamo, no, conferma questo tipo di... Ma c'era serenità in questo tipo di rapporto, in questa attesa di essere traghettati sulla barchetta dell'amore del bambù? Erano tutte sorridenti, tra l'altro poi mi è venuto... Soprattutto quando tornavano. Ah, decisamente. A proposito di questo, quando sono partito in aereo a Malpensa, non ho mai visto così tante donne da sole che partivano su un volo. E sì che ho girato un po' il mondo, ed erano tutte... Negli occhi avevano un principio di ricerca di felicità, tornavano tutte con le treccine, tutte abbronzate, con un sorriso stampato impagabile. Comunque, per riassumere, ma che ben facciano, che Dio le benedica, se l'uomo italiano, l'uomo occidentale non è in grado di soddisfarle, ma che si divertono col negretto. Sono perfettamente d'accordo, tanto che ho fatto questa trasmissione con il sorriso sulle labbra e col massimo della leggerezza, proprio per dire che è un lecito diritto. Quando vedrete la vostra collega di scrivania arrivare con le treccine, tutta felice, tutta contenta, una pelle splendente, è giusto voi sappiate che è andata a cercarsi la felicità che non siete stati capaci a dargli voi, che gli state accanto tutto il giorno. A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Melog, la realtà condivisa. .800240024, parliamo di turismo sessuale femminile. Giovanna, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno Giovanna. Sono io, buongiorno. Ascolti, sentendo la sua trasmissione mi sono venuti in mente dei ricordi, per cui ha fatto riaffiorare dei ricordi di un'esperienza che ho vissuto. L'aveva rimossi? No, sono un po' lontani, sono stati coperti da altro, però mi sono riaffiorate le sensazioni, come sempre magari i fatti, così, uno se li ricorda o non se li ricorda, però la sua trasmissione mi ha fatto venire fuori le sensazioni che ho provato, le racconto. Se sono raccontabili alla radio ce le racconti, se no ce le racconti lo stesso. Assolutamente sì, qualche anno fa, diciamo 7-8 anni fa, con il mio compagno sono andata in vacanza a Capoverde. Quando dicevo che sarei andata a Capoverde vedevo dei sorrisini strani, io non capivo. Quando sono arrivata là, poi nei locali eccetera, ho visto sia, diciamo, la parte femminile sia la parte maschile, quello che lei diceva all'inizio. Ho visto le signore, erano parecchie tedesche, forse noi dovevamo ancora arrivarci, parecchie signore tedesche di una certa età ballare, insomma soprattutto alla sera si vedevano ballare con questi bei ragazzi. O si vedevano anche invece gli uomini con ragazzine al fianco. Quello che voglio così puntualizzare, quello che lei ha già puntualizzato, la sensazione che ho avuto da un lato e dall'altro è stato un grande disagio a vedere gli uomini con queste ragazzine vestite un po', insomma, quell'età indefinita, per fortuna non erano ancora troppo, insomma, però un'età indefinita, molto giovani, è una sensazione di grosso disagio, soprattutto ricordo il sorriso ebete molto compiaciuto, come dire vedete che bella ragazza, che bella figliolo al fianco, sì. Mentre invece le donne mi, così come dico, mi sono rimaste le sensazioni di una grande tenerezza, forse perché sono una donna anch'io, di una grande tenerezza, di una grande, perché non stavano lì sedute a fare la vetrina, a farsi vedere quanto erano belle perché avevano così di fianco il muscoloso ragazzo, ma di una grande tenerezza perché ballavano i lenti, si facevano stringere, per cui così io ricordo questa. Ma mi sembra che molto chiaro quello che lei dice, conferma un po' la sensazione che abbiamo espresso all'inizio della trasmissione. Il turismo sessuale femminile è radicalmente diverso da quello maschile. L'uomo va lì per ottenere una gratificazione più che altro estetica, esteriore, o per una spinta compulsiva che arriva fino alla patologia più vergognosa. La donna ci va perché ha un profondo bisogno di vivere una storia concreta, carnale, sessuale, amorosa, affettiva, interessante. Quindi la donna va piena di gioia, l'uomo va pieno di orgoglio per il fatto che cioè, vedi, finalmente c'ho la ragazza vicino, anche se sono uno sfigato. La donna non è che si sente sfigata, si sente non apprezzata. Gli sfigati sono quelli che non l'apprezzano, e quindi va a cercare persone che l'apprezzano. È secondario il fatto poi queste persone ci vadano, perché lei in fondo le gratifica pagandole o dando loro dei momenti di concretezza, di benessere che loro non hanno. Vittorio è caduto? Allora riprendiamo solo velocemente con Clara Caverzan, che ricordo che è autrice di Goodbye Habibi, edizione a Nord-Est, che è appunto la storia di una donna che si avventura anche con situazioni non sempre felici in questo tipo di scenario. Signora Caverzan, rispetto a quello che ha sentito dire dai nostri ascoltatori, ha qualcosa da aggiungere, da integrare? No, hanno detto bene, mi piace anche che non si faccia del sarcasmo gratuito. Soltanto questa storia del sarcasmo, gli uomini dovrebbero interrogarsi, semmai essere belli tristi, non sarcastici. Sì, secondo sì me. Magari un piccolo appunto, quando quell'ascoltatore ha definito il negretto, la donna che va col negretto, perché se noi dicessimo il bianchetto, la bianchetta, la sì, giacchetta. Però ci sta, non fermiamoci manco sì, sulle parole. No, per l'amor di Dio, però voglio dire. Le signore lo chiamano il cioccolatino e lo chiamano, non c'è nessun tipo di... Sì, è un altro... Non ho individuato in quello un senso di disprezzo, diciamo così, ecco, per questo no, non l'ho sottolineato. Sì, no, ha ragione. Però la donna deve fare i conti poi con questo incontro che lei ha con l'ignoto e con l'altrove, che è sconosciuto, perché anche se prima di partire lei si studia su tutte le guide quello che sarà il paese che lei conoscerà da vicino, però l'incontro con l'incontro con il giovane è un incontro con una persona e quindi una persona dalla cultura, dalla religione, dalle tradizioni, dal pensiero, dal modo di pensare totalmente diverso. Con questo devono fare i conti. Ecco, alla fine, secondo lei, giocare il gioco è pericoloso. Ecco, nei conti che si fa una turista sessuale, il gioco vale la candela, tutte queste fattispecie negative che peseranno senz'altro sono compensate comunque dalla sana e liberatoria sensazione di aver finalmente un uomo che non si fa tante pippe mentali, ti ama, ti prende, ti gode, poi magari ti lascia pure, ma perlomeno non c'è sempre un malato mentale a dover confortare vicino. No, chi è il malato mentale dei due? No, il malato mentale è l'uomo occidentale, pieno di problemi, pieno di frustrazioni. Sì, ma anche noi donne abbiamo raggiunto una sicurezza economica, lavoriamo e la esportiamo quando andiamo in quei paesi poveri. E dobbiamo fare un discorso, un ragionamento socio-economico prima di avventurarci in un rapporto con un ragazzo. Cioè dovete darvi una giustificazione socio-economica del vostro desiderio, non mi dica questo. No, assolutamente, però se dopo la storia continua dobbiamo sapere che dobbiamo fare i conti con qualcosa che non conosciamo. E questo anche un pensionato che si innamora della sua badante dovrà fare gli stessi ragionamenti, deve vedere se a lui conviene vivere felicemente la sua vita per quanto ancora gliene rimanga da vivere, glissando, sorvolando sul fatto che la persona che sta con lui non ci sta certo per i suoi quadricipiti svettanti o per il suo bambù rigoglioso, ma ci sta anche perché gli permette un tenore di vita che mai potrebbe permettersi. Sentiamo a questo punto Jasmine Aboloa, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, è la coordinatrice per ECPAT Italia, che è l'organizzazione internazionale, mi dica se sbaglio, che si occupa appunto di prostituzione minorile, pornografia e traffico. Sì, e turismo sessuale appunto. E turismo sessuale. Minori. Ecco, io vedo che in uno dei vostri rapporti, voi occupate a vasto raggio del turismo sessuale in tutte le sue accezioni, quelle più bieche, quelle più violente, quelle più terrificanti, avete definito il turista sessuale in varie categorie, quello occasionale, quello abituale, il pedofilo vero e proprio, ma vorrei, se fosse possibile, circoscrivere questo settore del turismo sessuale che voi avete trattato, il turismo sessuale femminile. Vediamo anche dal suo punto di vista quali sono le fattispecie, se possibile. Ma ascoltando pure quello che dicevano prima i radioascoltatori e appunto la scrittrice, onestamente quando si parla di turismo sessuale in danno di minori o sfruttamento sessuale di minori nei viaggi e nel turismo, ovviamente teniamo conto di un elemento fondamentale che comunque a prescindere appunto dall'età del minorenne, quindi in fascia d'età compresa tra 0 e 18, parliamo sempre e solo ed esclusivamente di vittime, di minori che vengono coinvolti nella prostituzione, quindi prostituiti. Quindi anche le turiste sessuali donne molte volte si approfittano dei minori, questo bisogna dirlo. Certo, sì, assolutamente. Questo onestamente noi portiamo avanti una battaglia che appunto vuole mettere da parte qualsiasi discorso per vedere con le differenze di genere, perché qui parliamo di violenza, quindi l'attenzione è completamente incentrata su questo elemento qui, ovviamente sull'elemento della mercificazione del minore e poi appunto sul fatto che la vittima è un minorenne, quindi un soggetto non definirei assolutamente incapace di intendere e di volere, comunque un soggetto in crescita che può essere ovviamente turbato da tutta una serie di aspetti anche nella sfera sessuale. Diciamo, dal punto di vista della turista femminile varrà ancora di più la giustificazione tipica, ma nella loro cultura loro sono già considerate persone adulte. Ma guardi, per quanto riguarda le turiste, per l'appunto c'è una visione anche dal punto di vista prettamente fisico rivolto a ragazzi, quindi ad adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, quindi parliamo comunque di ometti, per così dire, termine che appunto noi evitiamo di utilizzare, però appunto ragazzi che hanno delle caratteristiche. Sempre per sottolineare e ricordare che chi poi dopo viene identificato come pedofilo, sia che sia al femminile che al maschile, è il soggetto che comunque ha rapporti sessuali con un minore in età prepubere. Io ho letto nei vostri rapporti che ci sono stati dei periodi in cui state trovate turiste sessuali, addirittura si portavano ormoni dietro da somministrare a questi ragazzi. Sono delle turiste pedofile proprio, qui parliamo appunto di pedofilia in senso stretto, prevalentemente di origine tedesca e canadese, americana, che si recavano appunto nel sud-est asiatico. Mi scuso se gli ascoltatori per la crudezza della cosa, però appunto iniettavano nei testicoli di questi bambini di 7-8 anni questi ormoni affinché si potesse aggiungere un'erezione. Allora ci fermiamo solo un secondo, non perché la voglio censurare, dobbiamo dare la linea al traffico. Riprendiamo esattamente con questo argomento fra un istante con la dottoressa Jasmine Aboloa dell'ECPAT. Melog, la realtà condivisa. 800 24 0024, parliamo di turismo sessuale femminile, abbiamo una terza parte ristrettissima, quindi velocemente. Gino, buongiorno. Buongiorno. Sì, velocemente, lei per 8 anni ha fatto l'assistente di volo. Esatto, io praticamente facevo l'assistente di volo sulle classiche rotte del turismo sessuale maschile e femminile per gli italiani, quindi diversi posti dei Caraibi, Brasile, Capo Verde, Giamaica, eccetera, e ho avuto occasione di vedere il turista sessuale, diciamo, nelle varie fasi. Nell'andata e nel ritorno. Nell'andata e nel ritorno, ma anche dopo gli anni, perché dopo gli anni li si vede. All'andata li si vede tutti festosi, al ritorno chiaramente compiaciuti, ma tanti di questi dopo qualche anno li si vede accompagnato da il o la diciamo preda, che non si capisce bene quale sia stata la preda e quale sia stato il predatore, con al seguito tanto di 2, 3, 4 bambini. Quindi sono quelli che hanno messo su famiglia. Ci eravamo interrotti con la dottoressa Jasmine Aboloa, che è coordinatrice dell'ECPAT Italia, che è appunto l'organizzazione che si occupa di prostituzione, di traffico e di pedofilia. Ci siamo interrotti, si sentiva molto male la telefonata, vediamo se adesso l'abbiamo recuperata. Dottoressa Jasmine, ci stava raccontando l'aspetto più estremo di questo turismo sessuale, quello che rasenta la pedofilia, cioè che entra nell'ambito della pedofilia vera e propria. Pronto? Sì, pronto. Ecco, sì, adesso sì, la sento bene, sì. Mi sentite? Lei diceva che addirittura, proprio per fare la punta estrema, abbiamo parlato di romanticismo, di amore, di desiderio, di affetto, però le turiste tedesche soprattutto state trovate con le iniezioni testicolari di ormoni per rendere attivi dei bambini, è l'aspetto forse più cupo di questa vicenda. Assolutamente sì, ovviamente qui abbiamo a che fare con una patologia che è strettamente legata alla sfera sessuale. Ecco, diciamo, non è desiderio di amore, ma è patologia vera e propria, è una malattia mentale grave. Sì, non la definiamo malattia mentale in quanto sono ben altre quelle, però c'è questa funzione sessuale distorta appunto, rivolta esclusivamente ai bambini. Bene, abbiamo fatto, la sigla ci porta via, abbiamo fatto un quadro completo, siamo partiti appunto da un lecito e leggiato desiderio di affettività, siamo arrivati all'aspetto più truce, ma è giusto che sia così perché un problema deve essere postato in tutte le sue fattispecie e i suoi aspetti. Ringrazio i miei ospiti e l'appuntamento è domani al Salone del Libro di Torino.